se sono solo come mai. Non ho una lira e tu lo sai, perdonami. Sono uno strano uomo che può frequentare solo te. Abbracciami, non sono morto e tu lo sai. Se ti procuro tanti guai, perdonami. Il dolce non lo mangi mai, ma qualche volta ti rifai. Abbracciami. Tutte le cose che non hai accanto a me le troverai nel mondo dell'illusione. Tu vai sicura, vai così, perché io sono sempre qui.